che volano mic, volano titoli anche tu. Vedo che ti senti nuda come me, ma che qui più sento e meno, meno, meno sento. Ci si sente profughi sotto bombardamento. Dicevi che il mondo va cambiato e tanto è lui che cambia te. Dicevi che il mondo va capito, lui che non capisce te. Non capisce te. Non capisce te. Parla più piano che non ti sento. Sotto, sotto, sotto, sotto bombardamento. Chiudimi a chiave quando mi hai detto. Sotto, sotto, sotto, sotto bombardamento. Che volano news, sparano missili, stiamo qui nel rifugio che viveri ce n'è, ce n'è. Ti diranno sempre che uno vince, l'altro perde. Ci sarà un antidoto per questo verdoso di merda. Dicevi che il mondo va cambiato, intanto è lui che cambia te. Dicevi che il mondo va colpito, intanto lui colpisce te. Lui colpisce te. Lui colpisce te. Parla più piano che non ti sento. Sotto, sotto, sotto, sotto bombardamento. Chiudimi a chiave quando mi hai detto. Sotto, sotto, sotto, sotto bombardamento. Bombardamento, chiudimi a chiave quando mi hai detto sotto bombardamento.